9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui, buon martedì 24 novembre da Oscar Giannino. E il tema è presto introdotto, lo abbiamo tratto da spunti che i giornali nei giorni scorsi hanno approfondito commentando alcuni dati che si devono alle composizioni della provenienza etnica dei microimprenditori in alcune province italiane di alta intensità industriale. Sono date delle camere di commercio e ve li propongo molto rapidamente prima di presentare gli ospiti di giornata, insieme ai quali approfondire alcune considerazioni intorno alla portata di questo fenomeno. Il fenomeno è quello del rilievo crescente che in aree di alta industrializzazione italiana tra le microimprese manifatturiere sta assumendo la componente di microimprenditori cinesi nel nostro paese. È un fenomeno rispetto al quale interrogarsi per motivi di intolleranza etnica? No, assolutamente, ma vedrete che le percentuali sono così elevate che sicuramente un minimo bisogna interrogarci su che cosa può diventare e cosa deve diventare, quali regole rispettando, quali principi di convergenza diffondendo per restare un paese coeso e non andare incontro a fenomeni di intolleranza, soprattutto quando poi c'è una crisi economica che morde e riduce ancora a doppia cifra fatturato e ordinativi industriali. Ecco, quali serie di principi, regole bisogna darsi e che tipi di riflessione fare tra noi tutti. E vi invito oggi più che mai a chiamare all'800 24 00 24, magari per esporci anche situazioni di altre parti d'Italia. Quali sono questi dati? Ecco, molto rapidamente, secondo i dati delle Camere di Commercio, a Milano nel settore cuoio, calzature e confezioni, sul totale di 2.155 imprese individuali, 723 sono aziende cinesi, per una percentuale del 33,5%. A Brescia, su 1.024 imprese individuali, 361 sono di cinese, nel cuoio, calzature e confezioni, 35,3%. A Bergamo, nel tessile e confezioni, sono 117 su 606, cioè il 19,3%. A Mantova, nel tessile, sono 39 su 133, cioè il 29,3%. E poi Varese, anche qui nel cuoio, calzature e confezioni, il 13,4%. Como, nel tessile e confezioni, quasi il 10%. Quindi percentuali in non solo a doppia cifra, ma che vanno verso un quarto, un terzo del totale delle microimprese artigiane. Intorno a questi dati, ecco i nostri ospiti di giornata. Abbiamo innanzitutto collegato con noi Marco Accornero, che è il segretario generale dell'Unione Artigiani della provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Poi abbiamo Andrea Gallo, che è direttore dell'ASCOM Confcommercio di Vicenza. Buongiorno Gallo. Buongiorno a lei, grazie. E Antonio Ciavarra, responsabile servizio CNA World. Buongiorno Ciavarra. Buongiorno a voi. Con cui speriamo di approfondire anche un altro aspetto, cioè io non vorrei che chi fosse in ascolto equivocasse la trasmissione di oggi. Ripeto ancora una volta, questa non è una trasmissione per dire aiuto, aiuto, ci stanno invadendo i cinesi. Questa è una trasmissione per capire e riflettere, e anzi, se avessimo anche qualche voce di imprenditore straniero, di microimprenditore straniero, artigiano, commerciante eccetera, sarebbe, lo voglio sottolineare, ben accetta, ben voluta, perché questa non è, ripeto, una trasmissione volta all'intolleranza. Lo dico 7 volte prima che poi di scoprire che magari arrivano messaggi e telefonate che mi sconfessano, ma non credo proprio. Allora, Accornero, la situazione disegnata da questi dati, innanzitutto, è una situazione che rapidità di processo ha avuto? Cioè, questo fenomeno è in fortissima accelerazione proprio in questi 2 anni di crisi, oppure un fenomeno che, diciamo, da una decina di anni a questa parte ha iniziato sistematicamente, goccia dopo goccia, ad assumere queste proporzioni? No, è un fenomeno che nasce da lontano. Io parlo particolarmente della provincia di Milano e della Lombardia in genere. La crescita esponenziale di imprenditori stranieri, nel senso provenienti dall'estero ma magari presenti sul nostro territorio da diversi anni. Nel nostro settore dell'artigianato questa presenza crescente è dovuta anche al fatto che gli italiani, come dimostrano altre statistiche, abbandonano certi settori dell'artigianato, non vogliono più fare certi mestieri, e questi spazi vuoti vengono occupati da imprenditori di origine straniera. E questo in generale per l'economia, per il tessuto economico, è un fattore sicuramente positivo, perché peraltro si tratta di attività, si sia di produzione che di servizi ancora richiesti, necessari. Tipico esempio è l'edilizia o i trasporti, dove se non ci fossero gli stranieri sarebbero settori che si bloccherebbero. Peraltro il rovescio della medaglia è che in altri settori stiamo registrando, oltre alla crescita esponenziale, una concorrenza sleale, fatta non rispettando le regole che la nostra comunità si è data in termini di rapporti di lavoro, igiene, sicurezza sul lavoro, e questo comporta una concorrenza non tollerabile per gli italiani. E ripeto, non è un fatto razziale, sono d'accordo con lei, tant'è vero che in generale lo giudichiamo un fenomeno positivo, ma in certe nicchie, in certi settori, questa concorrenza si manifesta in termini non corretti. Aspetti, prima di arrivare, perché quello è l'aspetto di cui ci occuperemo prioritariamente, questo della concorrenza non corretta, ma prima di arrivare lì, qual è la sua opinione sul perché, mentre è evidente che settori come l'edilizia, i trasporti, cioè in generale le qualifiche considerate molto basse, lo sono anche per remunerazione e impegno fisico nel nostro mercato del lavoro, come in tutti gli altri paesi che si aprivano all'integrazione, diventano la prima destinazione pressoché obbligata per l'integrazione graduale e l'ascesa sociale degli immigrati. La domanda che le faccio è: perché invece alcuni settori dell'artigianato manifatturiero, tipo il tessile, tipo le pelletterie, le concia, le scarpe, diventano il terreno in cui si espande più che altrove la presenza degli immigrati? Perché innanzitutto vengono da tradizioni culturali dei paesi di origine, dove questi settori, si pensa ai cinesi e il tessile e comunque il calzaturiero e quindi la pelletteria, dove appunto vengono da tradizioni tramandate dal loro paese, quindi si portano esperienze anche professionali o comunque familiari del paese d'origine. Oltretutto qui settori dove la concorrenza basata sul basso costo e sul prezzo, magari anche la bassa qualità, può far vincere la sfida nel mercato, a differenza di altri settori dove la maggior qualità, il maggior impegno tecnologico richiesto non fa premio rispetto al prezzo. Cioè il prezzo non è l'unico discrimine che viene considerato dal consumatore. Ma magari se non hanno approvvigionamenti a materie prime o a semilavorati diversi, a me se non concesso, le chiedo questo: non è che poi lavorano di più e sono molto più produttivi di quelli italiani, e quindi al di là della sicurezza rispetto alle leggi c'è anche una questione di concorrenza sleale, semplicemente perché ci danno più dentro? Ecco, domanda un po' provocatoria, mettendosi dai loro punti di vista, però lei deve immaginare che chi non è del settore ci ascolta dice: ma com'è questa faccenda? Lavorano di più degli artigiani italiani? Ma è difficile che lavorino di più degli artigiani italiani che si identificano con la propria bottega. Il problema, se fosse solo questo, sarebbe concorrenza leale. Il problema è che quando a far lavorare di più sono i propri dipendenti, ma senza il rispetto delle regole, quindi senza pagare i contributi, senza rispettare i contratti di lavoro, senza pagare gli straordinari. Allora tutto questo non si chiama più maggiore efficienza, ma si chiama sfruttamento. Andrea Gallo, dalle parti vostre, con lei dell'ASCOM, con Commercio Vicenza, il fenomeno nel vostro settore eccetera è rilevante, è appena appena evidente, che portata ha? Ma non mi sembra abbia non, nel settore manifatturiero non lo so proprio. No, nei settori nostri del turismo e dei servizi non mi sembra vi siano quelle percentuali che lei citava per il settore manifatturiero in Lombardia. È però evidente, anche se dati esatti non ne abbiamo, è però evidente che c'è un incremento della presenza di questi lavoratori stranieri, imprenditori stranieri nella nostra piazza. E evidentemente ci troviamo di fronte a un vero e proprio investimento, tant'è che acquisiscono aziende già in attività e le pagano profumatamente, quindi si può parlare di investimento in settori nei quali fino a qualche anno fa non vi era presenza di stranieri. stranieri. Quindi stiamo parlando di una componente anche di immigrazione che, a differenza di altre componenti, penso classicamente a quelle africane eccetera, che poi attraverso il loro lavoro qui poi destinano una parte a volte preminente dei propri redditi o proventi al sostegno delle famiglie, al contrario si può immaginare che vi siano componenti etniche che al momento di considerare l'apertura di un'impresa investono parte delle risorse che provengono dal loro paese di provenienza. Alcuni pensano anche, a dire la verità, che ci siano fenomeni di reti di capitali dai loro paesi di provenienza, di cui poi i microimprenditori siano, non voglio dire dei prestanome, ma quasi. Voi che ne pensate di questo? Penso sia legittimo, perché così, nasometricamente si può sospettarlo, però obiettivamente dati non ve ne sono in questo senso. Gli strumenti, il sindaco di Vicenza, intervenendo nella nostra cerimonia domenica scorsa, ha lanciato un sasso avvertendo che aveva allertato i responsabili della polizia tributaria affinché vedessero bene dentro questo aspetto, però obiettivamente dati ad oggi sarebbe arbitrario esprimerli perché non ci sono. A Cornero, quando le percentuali diventano come in Lombardia, invece non voglio dire il sospetto, ma la considerazione che siamo in presenza anche di fenomeni di reti di investimento organizzato, cioè di occupazioni di pezzi sempre più ampi ma con un disegno dietro, come del resto alcune comunità fanno anche nelle parti delle città che diventano i quartieri a maggior percentuale di insediamento, una specie di conquista strada dopo strada. Ecco, ma questo tipo di considerazione secondo lei è legittimo farlo o è una supposizione dettata dalla paura dell'altro? Ai grandi vecchi non ho mai creduto in ogni campo e anche in questo. Certamente la rete etnica esiste, questo è dimostrato da vari convegni e basta sentire il mondo bancario che testimonia che vi sono etnie che non transitano, non fanno transitare i loro capitali e sia per investimenti sia per così scambio commerciale attraverso la rete bancaria. In alcune etnie esiste una sorta di finanza parallela per cui la comunità aiuta e investe su nuove attività reinvestendo gli utili, non parlo di riciclaggio, di reinvestimento degli utili prodotti da altre attività in ulteriore attività e espandendo la propria presenza. Ma tutto questo sarebbe anch'esso legittimo. La domanda è: questi utili derivano da una sana concorrenza o meno? Perché se tutto fosse frutto di sana concorrenza e di maggior abilità del mercato, ben venga, siamo una società che deve rispettare le regole del mercato. Il problema è che in alcuni settori, non in tutti, questo non avviene. Abbiamo subito una chiamata, Paolo da Genova. Prego Paolo. Buongiorno, io sono un imprenditore nel settore del commercio, nelle confezioni. Posso dare testimonianza della mia esperienza personale. Io sono 20 anni che conduco questa attività e ho avuto contatto sempre con la comunità cinese del bacino di Prato in Toscana. La questione è messa su questi termini. Confermo il fatto che loro stiano acquisendo le nostre aziende grazie ai grossi investimenti la cui provenienza è alquanto nebulosa. Per quanto riguarda invece il lavoro in sé, cioè la loro attività, usano molto lavoranti sempre della loro comunità in nero, sono tutti quanti lavoranti in nero, ci sono interi laboratori pieni di persone che cuciono dalla mattina alla sera senza seguire quelle che sono le nostre normative a livello di sicurezza o di igiene. E per quanto riguarda invece il lato fiscale, spesso e volentieri ci sono aziende che cambiano nome da un giorno all'altro. Grazie Paolo. Ecco, naturalmente Prato rappresenta l'esperimento, per così dire, di insediamento limite della comunità cinese in Italia, nel senso che lì è un fenomeno che va avanti veramente da moltissimi anni, ha acquisito una parte preminente rispetto al settore tessile della città. E di lì più forte il sospetto della mancanza di rispetto da parte della media di questa imprenditoria cinese delle regole sulla sicurezza fiscale, eccetera, tanto da alimentare vere e proprie iniziative di richiesta alla Guardia di Finanza locale, agli ispettorati del lavoro, di sicurezza, eccetera, di fare, non dico retate, ma insomma irruzioni e controlli molto sistematici. Una delle, tra virgolette, leggende che gira, leggende metropolitane, è che poi tra l'altro il fenomeno abbia acquisito una rilevanza tale rispetto al contesto economico produttivo della città e della provincia, da innescare oramai delle considerazioni di ordine quasi internazionale, nel senso che la comunità cinese lì è così importante, così radicata, che prima di effettuare veramente controlli sistemici di queste proporzioni bisogna mettere in conto anche qualche, non dico replica internazionale, ma quasi. Ecco, ripeto, è in realtà questa più una leggenda metropolitana che una realtà, perché me ne sono spesso occupato parlando poi con responsabili della Guardia di Finanza, di diversi uffici, eccetera, che invece giurano e stragiurano di fare tutto il loro dovere, compatibilmente col fatto di avere naturalmente le risorse territoriali limitate che sono assegnate da quelle parti. Vediamo ancora Simone dalla provincia di Mantova. Prego Simone. Sì, buongiorno a lei Oscar. Niente, io sono un piccolo imprenditore artigiano nella zona dell'Alto Mantovano, nel campo del tessile. Io volevo dire due cose, riguardo la sicurezza, io ho 13 dipendenti e ho provato a mandare a, diciamo, in modo falso, comunque a cercare lavoro in due imprese, una cinese, una non cinese, se non mi ricordo più bene del proprietario di questa attività, sempre nel mio ramo, e comunque io mi ho fatto una cosa, cioè io i controlli dell'AS per la sicurezza 626, queste leggi, mando i miei dipendenti a fare i corsi, insomma ho tutto in regola perché comunque i controlli li ho almeno due volte all'anno. E lì in queste due aziende non sono visti né estintori né i caschetti di protezione o le scarpe, diciamo, che vanno la sicurezza. E i controlli secondo lei non ci sono stati? Secondo me sicuramente sì. Poi un'altra cosa, io però se ci sono stati vuol dire che c'è un metro diverso di chi fa i controlli. Aspetti, infatti vuoi arrivare, che secondo me è proprio un discorso di sistema paese politico. E comunque quelle due cose in modo breve. Allora, seconda cosa, quando io faccio trasportare la mia, cioè diciamo il mio materiale, se utilizzo la Ferca, faccio anche i nomi, la Ferca o un tariffario, diciamo, come corriere, certo. Se utilizzo piccoli autotrasportatori mi fanno uno sconto del 30%. Certamente. Poi viene da dire che qua le tasse sono pagate anche lì con metro. E finisco il discorso dicendo questa cosa. Secondo me il politico è molto semplice. Allora, l'Italia, tutta l'Italia, non essendo produttiva in modo competitivo verso altri paesi, e non potendo aumentare gli stipendi, si è chiuso gli occhi dicendo facciamo venire gli extracomunitari, lavorano in nero, fanno le aziende qua, in modo tale che i famosi 1.000-1.500 euro al mese, uno comprando, diciamo, non so, l'indumento che altrimenti prodotto in Italia costerebbe 50 euro, compra 10 euro. Simone, attenzione, perché la produttività a più basso prezzo per un maggior volume di consumo capace di attirare e soddisfare le esigenze di chi è più basso reddito, messa così diventa un meccanismo che espande il nostro paese e è in grado di soddisfare delle domande che altrimenti non si soddisfano. Cioè, paradossalmente vale anche un po' il paradosso contrario di quello che dice lei, cioè questa sarebbe una buona spiegazione del perché considerare la percentuale di microimprese a doppia cifra di stranieri come una cosa buona. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di percentuali a doppia cifra sempre più rilevanti in aree dove è importante la manifattura, tra le microimprese manifatturiere, di microimprese cinesi e comunque incardinate su imprenditori stranieri, e che cosa questo implica, significa, se davvero sono molto più produttivi delle nostre, se non rispettano, come molti pensano, le norme di sicurezza sugli orari di lavoro e così via. Ma intanto un'altra finestra sempre dedicata alla Cina, perché non c'è solo il fatto che tanti vengono da noi a fare questo, ma c'è anche qualcuno che era andato a portare la propria impresa in Cina. Voi sapete la delocalizzazione nelle aree a basso costo e che sono diventate aree di traino dell'economia mondiale e da sempre indicata come una delle strategie per affrontare i mercati, diversificando ma avvicinandosi a quelle aree e tentando di insediarvisi, visto che sono quelle a più ampia tasso di sviluppo dei consumi nei prossimi anni. Però c'è chi lo ha fatto ed è tornato indietro. Quindi per qualche minuto abbiamo collegato con noi Luca Bonato. Buongiorno Bonato. Sì, buongiorno. Che è amministratore delegato del gruppo SAID, al quale chiederei di raccontarci questa esperienza. La sua è un'impresa vicentina, macchine utensili, era andato in Cina e ha deciso di tornare indietro, corretto? Esatto, noi abbiamo toccato la Cina nella fine degli anni 90, abbiamo iniziato con delle esperienze di joint venture, cioè con una società con dei soci cinesi come era d'obbligo a quel tempo, per poi passare nel 99 un'azienda completamente italiana nel territorio cinese. Quindi è un processo di sviluppo che appunto aveva anche fatto a meno della necessità iniziale di un socio cinese che all'inizio quasi sempre maggioritario, anche se solo al 50%, quindi in realtà era una presenza in ascesa che si stava radicando. Sì, noi questa, ovviamente con il corso della manodopera in Italia alla fine degli anni 90 abbiamo fatto questa scelta di quando smettavamo non era più conveniente fare dei prodotti in Italia piuttosto che smettere di farli, di trattarli, abbiamo deciso di farli nel territorio cinese. Dopo l'esperienza diciamo con le prime joint venture che non erano a maggioranza in questo, nel caso nostro, di soci cinesi, ma i soci cinesi avevano una minoranza, comunque questo ci comportava una non possibilità di lavorare paritariamente con il nostro socio, perché in ogni caso la realtà del governo cinese è quella ovviamente di difendere la spada tratta del socio cinese. E poi cosa è successo oltre a questa complicazione del rapporto con il socio? Ma diciamo che nel territorio cinese noi abbiamo incontrato parecchie difficoltà. La nostra era una situazione un po' particolare, nel senso che la nostra azienda lavorava sia per produrre del materiale che poi veniva rivenduto nel territorio cinese, che per fare dei semilavorati per le nostre aziende in Italia. Nel caso dei semilavorati noi portavamo la materia prima italiana nel territorio cinese, la trasformavamo senza portarla al completamento, anche per il know-how tecnologico, che il rischio è molto, molto elevato ovviamente. Però questo col tempo ci ha portati due effetti: nel territorio cinese ad avere un prodotto che non era né completamente occidentale e né un prodotto cinese, quindi una difficoltà forse più alta a vendere un prodotto diciamo misto come in questo caso nel territorio cinese che un prodotto completamente italiano a prezzo più alto. Mentre per quello che riguarda le nostre produzioni che finivamo in Italia, purtroppo nell'area cinese non siamo mai riusciti ad ottenere, nonostante l'entrata nel WTO di anni fa del governo cinese, non siamo mai riusciti ad avere costanza sulla fornitura dei materiali, sulle specifiche tecniche. Cioè le lavorazioni di qualità sui metalli, gli acciai eccetera eccetera sono ancora non sufficientemente di qualità media, della intensità e dell'altezza di qualità necessaria per lavorazioni complicate di segmento elevato come le vostre, questo? Sì, ma soprattutto non rispettano, cioè non è diciamo che il governo cinese non punisce il commerciante cinese che vende dei materiali nel territorio cinese, parlo dei materiali a noi esteri con delle specifiche diverse da quelle richieste. Ah, naturalmente questo significa che se invece il fornitore che acquisisce quel prodotto fosse un'impresa cinese o cinese di stato, privata eccetera, la qualità invece sarebbe più elevata, quindi una forma di concorrenza ai vostri danni in quel caso. Esatto. Diciamo che comunque il governo cinese poi resta molto più attento nel gestire rapporti tra i cinesi che con noi esteri, quindi anche nel caso di una disputa purtroppo noi siamo sempre penalizzati, ecco, quindi diventa molto molto difficile lavorare in questi termini. Quindi, se posso dire, la decisione di tornare è dipesa dal fatto che, tutto considerato, la possibilità di fare rete lì contro la preminenza della Cina sicuramente era in condizioni meno agevoli di quanto invece, a quanto pare, l'Italia è in grado di garantire alla rete dei cinesi qui di fare rete, o no? Esattamente, Esattamente. Ecco, io ringrazio Luca Bonato perché è un esempio, questa testimonianza sicuramente specifica la sua impresa, il suo settore, però questa esperienza testimonia quella che si chiama la simmetricità. Allora, quando, siccome io sono uno favorevole all'apertura di mercato, io sono per la globalizzazione e così via, e credo che da questo ne possa discendere una comparazione aperta tra costi di produzione, condizioni della produzione, spingere chi ovviamente ha redditi più elevati verso la catena più alta del valore aggiunto. Capisco che qui molti pensano su questo che quindi ci venga rubato il lavoro, ma non è così, perché chi ha una storia di impresa, di tecnologia più lunga, deve andare sulla parte alta del valore aggiunto, accettando l'idea che invece poi centinaia e centinaia di milioni di persone ci fanno concorrenza e però ampliano i mercati mettendoci il basso costo. Ma quando questa globalizzazione avviene in condizioni di asimmetricità così evidente, certo comporta un problema, perché invece rispetto alle regole simmetriche è la condizione di equità perché tutto questo avvenga, senza che altrimenti davvero poi ci sia quello che si chiama il dumping sociale. Ora, vediamo un secondo con Antonio Ciavara, che è responsabile del servizio CNA World Dedalo Torino, anche un altro punto di vista, perché altrimenti questo programma diventa un pochino unilaterale. Ciavara, ci sono anche naturalmente tantissime, sono maggioritarie, secondo me largamente maggioritarie, esperienze di lavoratori, artigiani, microimprese straniere che sono danno un ottimo esempio non solo di integrazione, ma che poi svolgono una funzione di utilità economica assoluta, o no? Ma intanto diciamo che le esperienze molto probabilmente sul territorio nazionale sono diverse. Sono diverse perché per esempio nel torinese noi abbiamo una presenza di cittadini stranieri imprenditori intorno alle 27.000 unità in Torino e provincia, e di queste la maggioranza, intorno al 40%, sono imprese che arrivano dai paesi che sono entrati ultimamente nella Comunità Europea, quindi come per esempio ci sono molti imprenditori rumeni. La seconda parte è legata alla presenza di lavoratori che provengono dall'area dell'Africa mediterranea, quindi dal Marocco. Questi imprenditori, diciamo che hanno la maggioranza di presenza nel nostro territorio e svolgono i primi attività nel settore dell'edilizia e i secondi nell'attività di commercio o anche di servizi alle aziende. In una situazione del genere a me piace molto sottolineare il fatto che anche decidere di avviare una propria impresa è comunque una parte del processo di integrazione dei cittadini stranieri. Come diceva lei, io non vorrei che si pensasse che tutti coloro che decidono di avviare un'impresa e sono stranieri lo facciano o per creare concorrenza o per mettere in difficoltà così l'economia in generale. Io penso che molti di loro decidono di effettuare questa scelta perché innanzitutto hanno un problema di carattere economico. Il secondo problema è quello che poi è anche la scelta che fanno molti italiani, è quelli di raggiungere una meta importante, cioè fare un lavoro per i quali alla fine della giornata, alla fine del mese si può essere soddisfatti. Io vorrei, come lei sottolineava, precisare che buona parte di coloro che decidono di diventare imprenditori hanno degli obiettivi seri, insomma, non hanno obiettivi particolari. È chiaro che la maggioranza di loro sono persone che sono per esempio espulse dal mercato del lavoro e diciamo così che sono quasi obbligati a decidere di avviare un'impresa, questo in particolare per le attività che riguardano il settore costruzione. No, qui il fenomeno particolare secondo me riguarda invece la possibilità che ci sia un fenomeno di costruzione di rete, per così dire, perché la presenza a volte capillare e l'insediamento che in alcune aree del paese, come si vede, inizia a diventare a doppia cifra con ascese verticali in unità di tempo molto ristrette della comunità cinese in alcuni settori, cioè tessile, lavorazione, conciaria, tomaifici e così via, fa pensare a volte che lì dietro ci sia un ragionamento di rete, cioè capitali di investimento che non provengono dai microimprenditori stessi, condizioni di prezzo, di acquisizione di materie prime e anche fiscali leggermente diverse. Allora lì forse c'è un problema da approfondire. Vediamo ancora cosa pensano alcuni di voi. Stefano da Milano, prego Stefano. Dottore, buongiorno. Ho seguito con interesse la trasmissione perché sono un imprenditore nel settore dell'abbigliamento. E mi interessava focalizzare il discorso di come viene formulato il prezzo da queste imprese diciamo cinesi che operano sul nostro territorio, soprattutto nell'abbigliamento. lei tenga presente che a Prato, se lei valuta la situazione, non è del 30% la presenza delle aziende cinesi, direi che raggiunge anche l'80%. Sì, sì, sì, certo, lì è molto più in tale, certo. Quindi è una cosa notevole. Sono andato per curiosità, accompagnato da una persona di mia conoscenza, a valutare la situazione. E mi sono trovato avanti delle situazioni così originali, per dire in maniera gentile. Mi sono stati offerti dei prodotti, delle maglie smacchinate attorno, non so, ai 4-5 euro. Smacchinate, sai cosa vuol dire? Sì, sì, sì, sì. Ecco. Quindi sono prodotti dove qualcuno li soffre. Esatto. Allora, la domanda di Stefano è: come fanno a fare questi prezzi? Eccoci tornati in studio. Allora, c'era la domanda di Stefano, l'imprenditore di Milano, che diceva: ma come fanno i prezzi? Sentiamo ancora due telefonate e poi passiamo la palla da Cornelio agli ospiti per la risposta generale. Innanzitutto Alberto, che chiamando da Prato ha voce in capitolo. Prego Alberto. Sì, buongiorno, salve. Io sono un agente di commercio di 33 anni. Sì. E vivo a Prato, lavoro per il 50% del mio tempo a Prato e il 50% del mio tempo in Spagna. Sì. Conosco bene la realtà cinese perché la vedo tutti i giorni, ossia i cinesi li vedo, sono talmente tanti, sono quasi 50.000. Che è un po' difficile non vederli, ma rispetto a quello che abbiamo detto, che opinioni ha? Allora, quello che penso io, e credo che i pratesi siano d'accordo con me, è che la realtà cinese non ha inficiato a quella che era l'industria pratese, quindi... E tante volte anche in televisione, nella trasmissione di Santoro, si erano visti questi pratesi arrabbiati con i cinesi perché si sentivano derubati del lavoro. Ma il lavoro, il prodotto tipico pratese, chi conosce Prato lo sa, non era la confezione, quindi non era il capo d'abbigliamento. I cinesi sono arrivati e hanno creato un'azienda che, se c'era, era piccolissima a Prato, quindi hanno creato una grandissima realtà che oramai ricopre, direi, il 50% dei capannoni delle aziende, degli edifici aziendali. Pratesi è cinese. E la sua esperienza è che rispettino le regole? Ecco, il discorso è solo quello. Cioè, abbiamo la fortuna, avremmo la fortuna di avere 50.000 cinesi a Prato, di avere la più grande comunità che c'è in Europa. Quindi, anche politicamente, potrebbe essere importante. Il problema è che questi veramente lavorano in delle condizioni terribili. Vede però Alberto che il problema c'è, se secondo lei lavorano in condizioni terribili. Ancora Andreina, la provincia di Genova, poi gli ospiti. Andreina. Buongiorno dottore. Dica. Dunque, io più o meno la stessa problema l'abbiamo qua. Qui a Rapallo, dunque, i negozi italiani chiudono e prosperano invece i cinesi. Ora, e non esce mai nessuno, sono tutti dentro, chiudono la sera e aprono la mattina prestissimo e sono già tutti dentro, non c'è controlli, ma la colpa non è dei cinesi, è la colpa della nostra corruzione italiana. Cioè lei dice che i controlli non li fanno perché qualcuno, insomma, evita di farli perché è interessato, ho capito bene che cosa... Tutto questo perché abbiamo noi, guardi, io sono una commerciante, sì. Se non siamo congrui, che magari c'è la crisi, sa benissimo i problemi, inutile ripetere, e vengono i controlli, ci tartassano, ci fanno delle cose. Guardi, io mi dà occasione di ripetere, perché siccome io è un anno che sostengo che l'attuale governo prende in giro tutto il settore con gli studi di settore, che secondo me andavano sospesi unilateralmente, ecco, io la penso così, naturalmente sono come al solito un po' un estremista, ma gli studi di settore, lo ricordo a chi è in ascolto, da strumento concordato di rilevazione dell'andamento dei redditi sono diventati strumento presuntivo di accertamento del fatturato, dell'imponibile e del dovuto allo Stato, e questo è incostituzionale. Comunque c'è un processo macchinoso di rimessa in regola bilaterale, ma diciamo molto più macchinoso e molto più diluito nel tempo rispetto a quanto erano gli impegni, secondo me, di questa maggioranza e di questo governo. Giudizio netto. Allora, a tutte queste osservazioni iniziamo facendo rispondere i nostri ospiti, innanzitutto a Cornero. Mi pare di capire che in generale tra gli artigiani e i commercianti italiani, anche tra quelli che hanno giudizio positivo, la preoccupazione però perché la mancanza di regole è molto molto diffusa, soprattutto laddove i cinesi sono molto molto concentrati, sia molto elevata. Lei che dice? Grazie dottore. Innanzitutto una piccola precisazione anche in merito a quanto ha detto il collega di Torino, perché sennò facciamo insorgere un equivoco. Anche nella provincia di Milano le etnie più presenti nel nostro settore dell'artigianato sono la rumena e l'egiziana, specie nel settore dell'edilizia. Infatti qui parliamo di nicchie, di settori, certo, diversi, dove c'è una concentrazione diversa e problemi diversi. In generale confermo quello che ho detto all'inizio, che l'imprenditoria straniera in generale arricchisce il nostro tessuto. Noi stiamo parlando, quelle cifre che abbiamo dato all'inizio non sono quelle nel cuoio, esatto, calzature, tessile, esatto, confezione. Perché ricordiamo sempre che artigianato per un terzo vuol dire edilizia, diretta o indiretta. Certamente. L'altro aspetto che chiedeva, come fanno a fare questi prezzi, nelle attività ad alto intensità di manodopera, chiaramente il mancato rispetto delle regole del lavoro e oltretutto lavorare per 12-15 ore venendo pagati per 5 o 6, chiaramente fa abbattere il prezzo finale del prodotto, del servizio moltissimo. Ma vi è un altro aspetto da considerare, sicuramente si questo tipo di imprese si accontentano di margini di profitto assai inferiori, ma non perché a meno sete di guadagno, ma perché hanno meno necessità, sono casi frequentissimi dei lavoratori che dormono nei laboratori, che si accontentano, non voglio fare la classica battuta, della ciotola di riso per mangiare, quindi hanno bassissime necessità di reddito e creano quindi la possibilità di avere minori margini di utili per poter progredire nella propria attività. L'ultima considerazione che vorrei lasciare è quanta ricchezza questo tipo di attività lasciano sul territorio, perché utilizzando lavoratori italiani, trasferendo molte dei margini che producono ai paesi d'origine, salvo i reinvestimenti nell'acquisto di attività, c'è anche da sottolineare che poca della ricchezza prodotta resta in Italia, anche perché il semilavorato che viene utilizzato per realizzare i vestiti piuttosto che le calzature, cioè il tessuto e la pelle, proviene dall'estero. Quindi in realtà creano questo tipo di attività, ripeto, non il generale dell'attività straniera, ma questo tipo di attività, anche poca ricchezza per il nostro territorio. A Gallo, grazie ad Cornero. A Gallo chiedo anche qualche considerazione sul fatto, cioè in Italia ho visto che ci sono stime fatte dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, per cui insomma ogni anno c'è un tasso di rotazione di chiusura di esercizi pubblici che può arrivare al 20%, talvolta anche superarlo a seconda degli anni di crisi, e c'è in questo tasso di rotazione una parte poi di apertura di nuovi locali, bar, ristoranti, pizzerie, di cui il 40%, oramai in media, il 40% fa capo ad immigrati. Allora, questa rotazione così elevata, che problemi di rappresentanza e di coabitazione all'interno delle organizzazioni pone nel vostro caso? Credo sia difficile regolamentare, dare una regolamentazione a questi fenomeni. Sono fenomeni che sfuggono ad una possibile strategia. Io mi accontenterei che fossero fatti dei controlli puntuali e attenti su come poi vengono gestite queste attività. È l'unico sistema per poter evitare che si prendano chine antipatiche e poi non più gestibili. Secondo noi l'unica vera soluzione è attivare una particolare attenzione nei confronti di queste attività affinché siano costrette a comportarsi come si comportano le attività italiane. Grazie Gallo, grazie a Cornero, grazie a Ciavarra che abbiamo sentito da Torino e a Luca Bonato che ci ha raccontato della sua esperienza in cui ha deciso di tornare indietro dalla Cina. Io dico sempre ai miei studenti, il mondo è di chi ha fame e il problema è che chi ha fame spesso tende a dimenticare le regole. Bisogna che non dimentichiamo questo, sapendo che però la fame è una potente molla per l'espansione dell'economia. Ringrazio in regia Filippo Oreggi oggi e come sempre sono Marco Tulli che mi ha aiutato a mettere in piedi la trasmissione. Tutti gli errori di questa invece sono come al solito miei. La linea giornale radio, l'appuntamento a domani. Saluti e grazie da Oscar Giannino. 9 in punto.